Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento su Radio 24 con la cronaca Italia in controluce. Oggi è il 12 dicembre, il giorno nel quale si ricorda la strage di Piazza Fontana avvenuta 42 anni fa a Milano. Per quei morti non c'è ancora alcuna giustizia. E allora, per non dimenticare, vi riproponiamo un pezzo dello spettacolo di teatro civile di Daniele Biacchessi, Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta. Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta. Michele Fusello al sassofono, un applauso. Alessandro Sesana, computer ed effetti. Ti ricordi Uomo il 1969? Eh? Allora, nel 1969 la televisione era in bianco e nero. Allora tu avevi aspettato tutta la settimana per vedere la finale di Coppa dei Campioni in Milan-Ajax. E arrivi lì e Gianni Rivera diventa lungo come un albero di Natale. Mamma, già che sei lì, sposta il filo! E le linee cominciano a diventare orizzontali, poi verticali. Gianni Rivera, che era un albero, diventa un nano. A casa mia l'antenna, come avete capito, era vicina all'apparecchio. E questo accadeva tutte le sere. Ci voleva pazienza. Ragazzi, c'erano delle manopole del contrasto. Quelle del volume, quelle di plastica, quelle che furia di girarla ti restavano in mano, non si vedeva, non sentiva più niente. Era una lotta impari. Alle 17.30 in televisione si vedeva la televisione dei ragazzi. Ora c'era un signore che si chiamava Angelo Lombardi, che parlava con tutti, con i cani, gli uomini, i serpenti, poi gli uomini no, con i topi, piuttosto i topi, ma con gli uomini no. Poi c'erano i viaggi di Gulliver e c'era Paolo Poli, che adesso ha 80 anni, Paolo Poli faceva i viaggi di Gulliver. E poi c'era Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, ragazzi. Che tempi. La sigla faceva così, nonnetta sprint più forte di un bicchiere di gin. Poi c'erano i telefilm, me li sono contati tutti, Ivano, Giovanni Senza Terra e lo sceriffo di Nottingham, Thierry Lafond, i compagni di Ball. Poi c'era il quartetto centro di Non Cantare Spara. E poi c'erano gli sceneggiati. Tino Buazzelli era Nero Wolf, Gino Cervi, il commissario Maigret e Ubaldo Lai. Ubaldo Lai. Ubaldo Lai con il suo immancabile, straordinario impermeabile bianco, tanto che secondo me lui andava a dormire con l'impermeabile bianco. E poi c'erano i quiz. Uno, perché partecipa ad un quiz, no? Per vincere qualcosa. E invece, a chissà chi lo sa, c'era Febo Conti, c'era sempre la squadra di Valmadrera. E poi c'era un signore che tutte le volte che appariva in televisione, io ragazzi avevo paura. Il Mago Zurli. Ragazzi, eravamo un popolo di barboni, questa era la verità. Eravamo un popolo di disgraziati. L'operaio prendeva 117.000 lire al mese. Se volevi comprarti una Fiat 500 lusso, dovevi spendere 527.000 lire. Ad un certo punto mia madre mi guardava e diceva: dopo Carosello tutti a letto! Ma domani è domenica, letto! Avveniva tutte le sere, tranne il sabato alle 20.30, quando c'era la Freccia Nera. Ora noi abbiamo sognato le gambe di Loretta Goggi. E poi a un certo punto d'estate tu potevi guardare anche la televisione fino a tardi. E da un certo punto appariva un signore chiamato Gennaro, che veniva da Napoli. Era l'arbitro dei Giochi Senza Frontiere. Gennaro è stato l'unico italiano che in napoletano riusciva a farsi capire con i belgi. Cioè, i belgi capivano quello che lui diceva. E poi c'era il calcio. Cudicini, Piletti, Snellinger, Rosato Malatesi Tappatoni. Amrin Lodetti Sorvani e Rivera Prati. Sati Buoni Facchetti Bedinguane di Picchi. Jair. Mazzola Però Suarez Corso. Noi giocavamo alle figurine. C'era lo scudetto della Fiorentina, della Fiore, che valeva. Non si trovava mai. Un giorno per averlo mi indebitai per sempre, quasi come accedere ad un mutuo di questi tempi. Dovetti sborsare 10 pizzaballa, 5 chiarugi, 3 bulgarelli e 2 desisti che lo tiravano anche dietro. Mi indebitai per sempre. E nel 1969 una tazza di caffè al bar costava 50 lire, un litro di benzina 75 lire. Il 12 dicembre 1969, mancano 13 giorni a Natale, è quasi sera ma Milano è illuminata a giorno, i grandi magazzini sono sfavillanti, le compere e gli acquisti, le luminarie addobbano il centro che sembra un carnevale. Ci sono migliaia di persone stipate in pochi metri, percorso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Piazza San Babila, che vanno su e giù e osservano le vetrine. Ci sono gli zampognari e i venditori di caldarosta. Al bar del Barba e al Baraiti servono espressi in continuazione. La gente transita nei pressi del teatro alla Scala. Quella sera rappresentano il barbiere di Siviglia. C'è Ressa davanti a Rivoli per un uomo da marciapiede e al cinema Excelsior per Nell'anno del Signore. Il freddo ti entra nelle ossa, con il bavero alzato, i guanti presi da Crippa e il pullover di cashmere comprato da Schettini. È una cravatta acquistata poco prima da Avoglio, magari un cappello, un borsalino. I giovani stanno tutti in galleria a passerella da Fiorucci per gli ultimi arrivi alla moda. Tutti noi italiani ci sentiamo felici, immortali, allegri e innocenti. Ad un tratto un forte dirompente boato rompe quella strana ubriacatura invernale. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. 7 chilogrammi di esplosivo, tutti compressi dentro una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera, tipo 24 ore, è collocata proprio al centro del salone dove gli agricoltori contrattano il loro affare. La geninite viene attivata da un timer. 12 dicembre 1969, Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta. 17 morti più Pino Pinelli fanno 18 e 88 feriti. Alle 16:37 noi italiani eravamo tutti vecchi. Ed è tutto, vi ricordo che potete iscriverci controluce@radio24.it. Ci risentiamo domattina alle 6:30. Buona giornata.